giù coi calci sulle mie gambe corte. Delle legnate sei l'esperto, ma t'avverto, toccami ancora e sei morto. Non mento, guardo il naso corto, che mi diverto a dir cazzate. Mi costa difenderti dai tuoi vizi se m'ammazzi di mazzate. Mamma se l'ha detta a gambe levate. Poverina, scompare la tua paga ogni mese, in paese già la chiamano fatina. Di lei hanno stima in una cantina di moda. C'è un palo in mezza nuda, vi si smoda, fanno la coda per questo. Io me ne vergogno, faccio un sogno e vi ci resto. La mamma casalinga, il papà un uomo saggio onesto. Ma qualche bastardo beffardo m'attende, mi dà del bugiardo, m'offende, ne sento lo sguardo e mi incammino. Curvo nel vestitino, occhio basso, capo chino. Chi vuole come amico un burattino? Dammi la mano, vienimi vicino. Sono di legno, non sono più un bambino. Un burattino nelle mani del destino. Un burattino nelle mani del destino. Dammi la mano, vienimi vicino. Sono di legno, non sono più un bambino. Un burattino nelle mani del destino. Un burattino nelle mani del destino. Lucignolo, l'artista s'aggiusta una pista di coca col mignolo. Si riempie le tempe di nubi empie, pare un comignolo. Prima si fa, poi si fa serio. Scrive due cazzate sul diario, un visionario. Per questa roba c'ho la stima della gente. Contento per te, ma per me sei veramente deficiente. Altro che matto, mio amico. Com'è che un fatto sui gradini è solo un fatto e su di un palco è sempre un figo? In TV è arrivato il mago ciuccia fuoco, presuntuoso, che vende un mondo sano e generoso. Tu, dico più di un negozio di marca, va alla forca. Sai di stronzate più di una turca. Piglia per il culo i tuoi pupazzi. Numeri e tarocchi intrallazzi per gli sciocchi, a me non fanno effetto. Piuttosto attento alla finanza, conoscono il tuo nome. E sai chi è l'infamone che gliel'ha detto? Il grillo. Dammi la mano, vienimi vicino. Sono di legno, non sono più un bambino. Un burattino nelle mani del destino. Un burattino nelle mani del destino. Dammi la mano, vienimi vicino. Sono di legno, non sono più un bambino. Un burattino nelle mani del destino. Un burattino nelle mani del destino. Trovo quei due tipi là. Lui è il gatto, lui è la volpe, sono in società. Roba onesta. La nostra banca ha istituito un fondo apposta. Dacci il denaro, in fondo lo investiamo nell'azione giusta. Questa è roba fantastica per chi mastica Asimov. Non baratto i miei soldi con i Kalashnikov. Sta a vedere che sono io l'asino ciuco. Figlio d'un ciucco, amico d'un tipo tocco e poco lucido. Lucignolo, c'è il nome di uno stoppino. Tu sei una sega, io un burattino. Non starmi vicino, mannaggia. Persino il ciuccia che sta cuccia con la grata in faccia. Detto al secondino che se esce viene a darmi la caccia. Nella storiaccia l'ha fatta un ruolo incisivo. Mamma più lapdance uguale ospite televisivo. Dall'audience definitivo, mentre io vivo una pena. Arriva il grillo e grida capa